In collegamento telefonico con Paolo Minuto, intanto ben ritrovato Paolo. Grazie, ben ritrovati a Radio Onda Rossa e a tutti gli ascoltatori. Con te per parlare del documentario Cinema Novo di Eric Rocha che sarà all'Apollo 11 a Roma il 5 marzo. E Paolo, lo descriviamo un po'? Sì, intanto a Roma all'Apollo 11 il 5 marzo ci sarà l'evento di apertura della programmazione di Cinema Novo in collaborazione con la Mostra di Pesaro, la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, che è stata la prima mostra o festival del cinema che dir si voglia a presentare il movimento del cinema nuovo in Europa. Ma il 5 marzo è naturalmente anche la data di uscita nazionale del film, che anche in altre sedi sarà programmato anche successivamente. Il documentario ha vinto il premio Occhio d'Oro, Lei d'Or, al Festival di Cannes, al 69esimo Festival di Cannes, quindi 2016, con una giuria presieduta da Gianfranco Rosi. Il documentario di per sé sembrerebbe apparentemente una ricostruzione d'archivio di questo movimento. In realtà è una ricostruzione narrativamente appassionata, perché sia le sequenze scelte sono tantissime, quindi molto molto interessanti anche da un punto di vista proprio antologico, le sequenze scelte dai film che hanno rappresentato per diversi anni il movimento del cinema nuovo, sono messe in ordine di montaggio in modo da dare un profilo storico, ma anche appassionato dell'avanzamento rivoluzionario di questo movimento cinematografico. E poi anche le interviste che alternano le sequenze d'archivio sono, anch'esse d'archivio tra l'altro, sono interviste che sono montate in modo narrativo, cioè ogni intervista diventa un raccordo narrativo per raccontare la storia, in fondo anche ventennale, di questo movimento, che ha cambiato un po' il cinema d'autore, intervenendo anche su alcuni elementi dell'industria cinematografica, perché come si capisce bene lì, gli autori del cinema nuovo, a parte che erano un gruppo coeso che si scambiava i ruoli film per film, se qualcuno faceva il regista nel proprio film e il montatore nel film di un altro, o comunque andava sul set o in sala di montaggio a seguire film dell'altro per potersi anche confrontare e contaminare. Ma tra l'altro hanno insieme deciso di distribuire i propri film dopo un inizio difficile e quindi hanno in qualche modo rotto le barriere commerciali del cinema in Brasile e di fatto creando un esempio per tutta l'America Latina. E tra l'altro questi film, appunto, a partire dalla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, ma poi anche nei grandi festival come Venezia, Cannes e Berlino, si sono mostrati al mondo. E non dimentichiamo che quelli sono anni in cui nell'America Latina, non solo Brasile, ma appunto anche Cile, Argentina, eccetera, c'erano le dittature militari o paramilitari. Per cui un evento così rivoluzionario come un movimento cinematografico rappresentato da Cinema Novo era fondamentale. E tra l'altro amavano ricordare anche la loro ispirazione rispetto al neorealismo italiano, nel senso che Glauber Rocha, che è il padre del regista Eric Rocha, del regista di questo documentario, raccontava che il cinema nuovo rispetto al neorealismo italiano è come se l'estetica della povertà delle classi meno abbienti abbia lasciato il posto all'estetica della fame, perché i meno abbienti in Brasile e in America Latina in generale erano letteralmente affamati, quindi ancora un gradino più in basso nella scala sociale. Oh Paolo, la scelta distributiva è anche legata al fatto che almeno all'inizio ebbero più successo in Europa che nel proprio paese, perché pochi li conoscevano poi alla fine. Certo, d'altra parte appunto distribuire film che parlano della oppressione di molta parte della classe sociale più povera del Brasile, ma anche di elementi indigeni della popolazione durante una dittatura così feroce e repressiva come erano quelle, soprattutto in quegli anni, in America Latina, naturalmente era una cosa molto molto ardua e molto difficile. E tra l'altro l'aspirazione del cinema nuovo era comunque quella, come lo è stato anche del nostro neorealismo, di essere un cinema popolare. Probabilmente è stato più un cinema per il popolo che molto popolare, però in alcuni casi è riuscito anche a essere popolare, anche perché leggende popolari come Antonio Desmortes sono passate poi sullo schermo. È vero quello che dici tu, cioè che appunto l'Europa, appunto non solo Pesaro ma anche Cannes, Venezia e Berlino e altri festival hanno dato luce a questo cinema, ma d'altra parte inevitabilmente doveva essere così, proprio per la situazione istituzionale e politica di quel continente in quegli anni. Uno dei pregi del documentario è anche l'ampia scelta di materiale, che non è casuale, perché Eric, il regista, è figlio d'arte. Il padre era uno degli appartenenti a questa corrente. Beh sì, infatti, come dicevo prima, la scelta delle sequenze è ricchissima, quindi veramente si possono avere sequenze di un po' di tutto il periodo del cinema nuovo, e montate appunto anche con un criterio narrativo e descrittivo allo stesso tempo molto molto interessante e appassionante. E suo padre, Glauber Roth, appunto non solo è padre di Eric, ma anche uno dei padri del cinema nuovo, e infatti è presente anche nel documentario, naturalmente in alcuni interventi, non solo come film, ma anche in alcuni interventi di persona. Fino all'ultimo sfortunato intervento nel 1980 alla Mostra del Cinema di Venezia, quando con il film Aidate da Terra, Glauber Rocha partecipò a quello che era il rinato concorso veneziano, perché ricordiamo che Carlo Liziani ripristinò il concorso a premi alla Mostra del Cinema di Venezia, e lì Eric Rocha non vinse con Aidate da Terra, anche se ottenne un grande consenso di critica, e polemizzò con la giuria che fece vincere a Altman e Louis Malle con un ex aequo. E giurò che non sarebbe più tornato in un continente che aveva ancora voglia di essere colonialista come l'Europa. Purtroppo questa verve polemica politica molto interessante e molto appassionata si rivelò vera da un punto di vista reale, purtroppo, perché Glauber morì pochi mesi dopo, a quarantenne praticamente. Quindi rimane di fatto una leggenda Glauber Roth, come una leggenda reale naturalmente, ma una leggenda da un certo punto di vista del cinema internazionale. Paolo, dopo la presentazione all'Apollo 11 è prevista una forma distributiva? Sì, appunto il lunedì 5 marzo è il giorno ufficiale di uscita nazionale, quindi l'evento di Apollo 11 è fatto perché a Roma la Mostra del Cinema di Pesaro, Apollo 11 Racconti del Vero, il Cineclub Internazionale, vogliono presentare questo evento, però anche in altre città naturalmente il film uscirà, come per esempio a Milano Beltrade e altre sale che man mano conosceremo, ma più o meno in tutta Italia nei giorni successivi e anche nelle settimane successive si vedrà dalla Sardegna al Piemonte, all'Emilia Romagna, al Veneto, sicuramente alla Toscana, sicuramente o anche all'Umbria, per esempio penso al Postmo di Perugia, eccetera. Sicuramente ci sarà modo di vedere il film, e speriamo anche in molte altre sale. Naturalmente, essendo un documentario, ha un percorso distributivo necessariamente diverso, proprio per rendere più liberi gli esercenti di programmarlo quando meglio è possibile per intercettare il pubblico più interessato a questo tipo di film. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Cinema Novo di Eric Rocha all'Apollo 11 a Roma il 5 marzo, che è la data d'inizio dell'uscita, segna l'uscita nazionale di questo lavoro. Paolo, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie a te e a tutti voi, a presto.